Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Buongiorno, benvenuti popolo dei già svegli. Inizia oggi il nostro programma con le note del fumo sull'acqua. La battaglia è una battaglia di libertà, cura, di salute pubblica, fondata sulla cultura e sulla modernità, non sull'imposizione o sull'obbligo sovietici. Ci sono alcune etnie rispetto alle quali lo stupro è 10 volte tanto la tua presenza, vuol dire che ci sono delle etnie più predisposte, delle realtà più predisposte, le culture, scusate, non delle etnie, le culture più predisposte. La Brexit non è una scusa abbastanza forte per farmi tornare? Brexit o no, io rimango a Londra. Lei promette bene, le dicevo, e probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione? Ma... E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Vada a studiare a Londra, a Parigi, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Si è letto in questi giorni 80.000 euro cachet d'oro per Gigi D'Alessio. Non è assolutamente vero. Di questi 80.000 euro, 16.000 euro vanno allo Stato, all'IVA. E quando voi vedete un palco, la sicurezza, i musicisti, i fonici, i furgicamion, i furgoni, gli alberghi, gli embals, la SIAE, tutti questi soldi stanno sempre in quei famosi 80.000 euro. Quindi ricordatevi che qua siamo una a cantare e 400 a mangiare. Siamo una a cantare e 400 a mangiare. Era Gigi D'Alessio e oggi i compensi, i soldi, quello che viene pagato in Rai e non solo, sono uno dei temi della giornata. Però vogliamo partire dalle ultime notizie su Londra, i modi, addirittura si parla di piani segreti per applicare la Brexit, che qualcuno ora definisce addirittura Brexodus, e soprattutto le nuove norme riguarderà chi può entrare e chi no. Secondo le indiscrezioni, il grande filtro di Theresa May terrà fuori molti tantissimi europei e anche molti italiani da Londra. Allora, questa mattina con noi Francesco De Carlo, stand-up comedian, ha successo a Londra, in autunno inizia un programma Rai, ma è forse la persona migliore per raccontarci cosa sta accadendo oltre Manica. Buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Allora, intanto raccontiamo questo successo londinese. Sei arrivato lì e adesso sei un profugo, un clandestino. Guarda, il paradosso è che ho sognato tutta la vita di partire, di andare a fare appunto il comico a Londra, e nella stessa settimana in cui ho deciso di partire, questi hanno deciso di lasciare l'Unione Europea, quindi è abbastanza un po' la storia della mia vita. Qual è la battuta con cui si possono far ridere anche gli inglesi? Io di solito una cosa che fa molto ridere lì è che il fatto che sono cosciente del fatto che hanno votato per insomma contro i migranti, contro persone come me, però il fatto è che la Brexit ha fatto crollare il peso della sterlina, quindi io per la prima volta in vita mia sono potuto partire e trasferirmi a Londra, quindi ringrazio e dico che l'agenzia di viaggi Nigel Farage mi ha permesso di realizzare i sogni della mia vita. Questo è il modo con cui ridono parecchio di se stessi, insomma, anche se sì. Questa Brexit, insomma, li ha messi parecchio in difficoltà, Ma c'è già l'ironia sulla Brexit, si scherza, ci si diverte su questo? Assolutamente sì, ma direi anche che c'è stato pure il contraccolpo rispetto alla Brexit nelle ultime elezioni generali, quando... Sì, ovvio, sono crollati i cosiddetti populisti del Nucleo. Sì, ma lo sai qual è la cosa interessante? È il fatto che c'è una situazione quasi shakespeariana lì, perché la May, che era contraria alla Brexit, adesso la deve fare. Corbyn, il leader laburista, era invece favorevole alla Brexit, ma da sinistra, diciamo, e adesso si trova in una posizione a doverla combattere. Hai capito? E quindi è una situazione piuttosto paradossale quella che sta succedendo lì. Ed allora, è anche un'altra cosa che mi fa molto ridere a me, che mi aspettavo di avere questa società inglese, come l'avevano definita, insomma, con una democrazia stabile. Invece sono arrivato quest'estate, c'era la sterlina debole, il bel tempo, l'economia in difficoltà, questa classe politica completamente screditata, dico, ma questo è in Italia. Cioè, non è che la situazione non mi sembrava troppo differente da quella che avevo lasciato. E invece eri in Inghilterra. Abbiamo messo nell'apertura, insieme a Edith Purple, la voce del professore della Meglio Gioventù, il famoso film di Giordana, che dice: se ne vada via dall'Italia, lasci questo paese disperato. Che cosa pensi di questa generazione di giovani italiani, spesso di alto livello, che sono dovuti emigrare, di cui tu fai parte? Insomma, bisogna andarsene all'Italia, bisogna tornare. Qual è il bilancio che fai dopo averlo provato? Guarda, io adesso che sono ritornato mi ritrovo ad apprezzare alcune cose dell'Italia, perché è un posto che ti manca quando stai all'estero, ti manca tantissimo, parlando anche con altri italiani, perché poi in fondo io ho un anno che me ne sono andato, c'è gente che sta lì da 20 anni, quindi puoi immaginare. È un posto bellissimo, ci sta sicuramente un paese che loro si sognano, non solo per il cibo e per il tempo, ma anche per l'apertura delle persone, la disponibilità, però il fatto è che lì poi hai talmente tante opportunità che ti permette anche di avere dei sogni, delle ambizioni, che qui onestamente non solo la mia generazione, ma quelli pure un po' più giovani se ne sono scordati, insomma. Come sarà questo programma che prepari in Rai su questa avventura? Cioè, come? Guarda, lo stiamo girando in questi giorni, è la storia, è tutto filmato da me, e, nel senso della mia prospettiva, ed è appunto, siccome non si è mai sentito, si è sentito di ricercatori, si è sentito di chef e camerieri, ma non si è mai sentito di un comico che va a Londra a cercare di sbarcare il lunario. E allora ci è stato divertito raccontare questa storia e vedere un attimo il mio punto di vista su quello che è vivere all'estero, cercare delle relazioni con un popolo terribilmente freddo, perché poi sono molto diversi da noi anche in questo, soprattutto nel momento in cui hanno deciso di chiudere le frontiere. E quindi è proprio la ricerca di un'identità all'interno di un paese che cerca la sua identità. E la cosa, dalle differenze più stupide di buon cibo e alcol, a delle similitudini, insomma, per quanto riguarda invece la comicità, il mondo del lavoro, ci sarà da ridere, guarda. Vedi, hai suscitato una reazione, i nostri sms arrivano al 349-238-6666 e c'è un ascoltatore che ti dice: viva la Brexit, vi piacerebbe che fallisse e rimarrete delusi. Ci sono sostenitori italiani della Brexit. Ma no, ma la cosa assurda è questa, è quello che è successo lì. Adesso io non so quanto gli conviene agli inglesi, perché tutti questi piani segreti che stanno uscendo portano solo in una direzione, cioè il fatto che l'Unione Europea c'ha il coltello dalla parte del manico in questa trattativa. Adesso, almeno da quello che leggo dai giornali, ogni volta che esce un piano gli dicono che non va bene. C'è il rischio anche che debbano rivotare. Io la mia teoria è questa, che debbano rivotare in qualche modo, perché ci sarà un Parlamento che deve ratificare questi accordi e quindi si ripasserà per un voto parlamentare. In un Parlamento in cui Theresa May aveva scelto di richiamare le elezioni anticipate perché convinta di rafforzare la maggioranza, invece l'ha persa e si trova adesso in una situazione tipicamente italiana di essere dipendente da un piccolo partito che sono appunto gli unionisti nordirlandesi. Quindi onestamente io tutta questa paura della Brexit non ce l'ho. Certo, capito. Bene, allora grandi auguri per il nuovo programma e per la tua avventura oltre Manica. Ricordiamoci tutti che sono le 6:40, 47 secondi e siamo già svegli. Oggi, da oggi parte la nostra segreteria 0246524492 per raccontarci chi siete e perché siete già al lavoro. Devo chiedere a Francesco se tu sei sveglio prestista o stamattina ti abbiamo buttato giù dal letto. Guarda, io non vedo l'ora di tornare in Italia, perché è l'unico posto in cui posso dormire, perché lì non c'hanno le tende. No! Non hanno le tende, tu devi sapere una cosa. No, ma non si può fare questa propaganda per le tende. Non hanno le tende. le tende, hanno delle tende sottilissime perché non hanno la luce e quindi non hanno tapparelle, no, non hanno serrande. Quindi ho là alle 5:30 mi sveglio, diciamo, di buon umore. Quindi l'unico momento in cui posso dormire appunto è quando ritorno qui, perché chiudo tutto e dormo fino a mezzogiorno. Oggi per te, per i tuoi ascoltatori, è stato un onore. Eroico, Francesco De Carlo, eroico. Bello, non hanno le tende, vedi? Non hanno le tende. Già svegli, a voi. Già svegli. Sono già sveglio perché devo ancora andare a dormire. Sono già sveglio perché inizio a lavorare alle 6:30. Sono sveglio perché odio Telese. Siamo già svegli perché oggi è una grande giornata piena di cose, la polemica su la vicenda incredibile della bambina morta in corsia ha prodotto un giallo, un'inchiesta, ne vedremo di tutti i colori, ma poi ci sono nuovi sbarchi, pensate alle Eolie, non era mai accaduto, ci sono discussioni su tante cose, ma una storia mi appassiona e racconteremo, forse ci saranno anche le vostre telefonata, è quello del padre condannato a mantenere la figlia che non vuole studiare. Beh, questo è veramente la storia del giorno, la affronteremo, la indagheremo, perché io quando ho letto la disperazione di quest'uomo, che fra l'altro ha un'altra figlia che studia ma a cui non può dare una lira, ho detto ma questo è veramente un paese di pazzi. Strada in diretta. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta. "24 Mattino". Buongiorno, bentornati in diretta. E allora, fra le battaglie di queste ore c'è ovviamente quella di chi, abbiamo parlato ieri col direttore di Libero, abbiamo raccontato del responsabile immigrazione della Lega Nord, che è il primo che ha aperto le danze, fra chi prende la vicenda di Trieste, tremenda, terribile, dolorosa. Oggi c'è l'intervista del nonno di Sofia, che colpisce per la sua umanità e dice: non gettate il fardello su quei bambini malati in ospedale. Ma insomma, c'è chi invece, al contrario di quello che penso io e che pensano tanti, sono invece certi, sono gli immigrati che portano le malattie. E noi oggi ai nostri microfoni abbiamo Alessia Ambrosi, segretaria di sezione della Lega Nord Valle dei Laghi, attivissima su Facebook per questa battaglia. Allora, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Luca Telese. Alessia, ma perché lei è così certa? C'è un'indagine in corso, abbiamo a malapena mandato dei commissari, ci sono ispettori del Ministero, insomma è una situazione molto delicata, ci sono due ipotesi importanti, quella della trasmissione con un insetto che sarebbe rimasto catturato nella valigia, si parla addirittura del fatto che la zona in cui la bambina era stata in vacanza potrebbe essere propizia per questo tipo di contagio, è anche più adatta perché c'è un clima molto molto più torrido ovviamente che c'è nel nord Italia. Quindi perché lei è così sicura? Certo, allora, indipendentemente dal fatto che appunto quanto è accaduto a Trento, come avete voi ribadito, sta scuotendo non poco l'opinione pubblica e sta preoccupando i trentini quanto tutti gli italiani, io mi sento di ribadire quanto ha detto ieri il mio responsabile regionale Fugatti e quanto poi ha dichiarato il capitano Matteo Salvini proprio in una conferenza stampa alla Camera, ovvero che la provincia autonoma di Trento, che come tutti sappiamo ha una giunta sicuramente opposta alla nostra, ha palesemente ammesso quello che noi della Lega diciamo da anni, ovvero che sono i flussi migratori i responsabili dell'importazione di... Sì, ma in questo caso non c'è nessuna prova, cioè perché dirlo in questo caso? In realtà una sorta di prova ce l'abbiamo, in quanto proprio ieri l'ufficio stampa della giunta provinciale ha emanato una sorta di manuale proprio sulla malaria. E questo manuale è diviso in 12 punti ed era volto proprio a rassicurare i cittadini, giustamente, ed è stata anche un'ottima iniziativa. E allora? Sì, c'è un punto che, se mi permette, avrei piacere di leggerlo. Prego. Dove dice proprio malaria di importazione. E dice proprio queste cose. Oltre ad essere endemica, in molte zone del pianeta la malaria viene sempre più frequentemente importata in zone dove è stata eliminata, come l'Italia, grazie ai movimenti migratori, risultando in assoluto la prima malattia di importazione trasmessa da vettori in Europa e negli USA. No, no, ma io le dico anche un dato, ci sono stati 837 esatto. casi di importazione, però non è che si tratti di extracomunitari, sono qualunque tipo di persona che può essere in paesi tropicali o in Africa, essere costretto a viaggiare anche per motivi di lavoro, la maggior parte sono italiani o addirittura operatori medici e sanitari che sono stati in quei territori. Però sentiamo insieme a lei il blob di tutto quello che sta accadendo su questo tema. In questo momento noi abbiamo inviato i vetrini dei campioni sia della bimba che dei bambini ricoverati a Roma, all'Istituto Superiore di Sanità, dove verrà fatta un'analisi genotipica sul plasmodio. Che è come poi il DNA delle persone. Se risulta identico, allora questo significa che in qualche modo la contaminazione e l'infezione è avvenuta all'interno dell'ospedale, poi bisogna capire come. Ma come fai a tu scordare, Fra? Chi le nate esperte? Attendo il sole che si sta. Scusi, mi chiama in trasmissione e io non rispondo. Ma lei ha chiamato me. Mi rende conto? Dicendo che sicuramente la malaria a questa bambina è stata trasmessa da queste due ragazze. Io eviterei di parlare con giornalisti unicellulari. Tutto scienziato, guarda gli esperti qui in città. Tutti scienziati, mi scuso per la canzone napoletana che potrebbe turbare la sua coscienza, Clementino, no scherzo. Assolutamente. Ma ha capito il nodo, anche sentendo gli esperti più titolati, è che finché non ci sarà l'analisi e il DNA non potremo sapere questa cosa molto importante, cioè se a trasmettere la malattia è stato un insetto oppure un altro tipo di contaminazione, la più probabile è quella del sangue. Quindi la domanda che le faccio, è vero, la politica, la passione, capisco tutto, ma perché non aspettare questo esame? Cioè perché parlare prima? Lei mi cita il manuale precauzionale della regione in cui si trova, va benissimo, ma non è una prova. Qui questa storia ha bisogno di una prova esatta che ci dica che cosa è accaduto, e dopo lei può fare qualunque battaglia, qualunque campagna, però dopo no. Allora, premetto, noi diciamo come partito non abbiamo nemmeno preso posizione subito quanto accaduto, proprio per evitare, diciamo, commenti di... Ma come di non genere, avete preso insomma? Posizione? Avete preso no, posizione? Nel senso che abbiamo voluto aspettare appunto di avere qualcosa di più certo. Qualcosa di certo ancora non c'è, stiamo attendendo, c'è un'indagine in corso, quindi non vogliamo pronunciarci in merito a cose, diciamo, che lasciamo fare a chi di dovere, come medici e quant'altro. Di sicuro come partito noi ci permettiamo di dire l'importanza comunque e di ribadire l'importanza di bloccare comunque questi flussi, perché sicuramente una trasmissione avviene e quindi sicuramente è stato dimostrato appunto la possibile diffusione della malattia attraverso queste zanzare anopele o comunque addirittura di zanzare locali, perché so che appunto in questi giorni sono state anche poi prelevati dei campioni in tutti i posti dove è stata la bambina per capire se effettivamente sono anche poi delle zanzare locali o quant'altro. Però sicuramente, e questo lo dico da esponente del partito, ma lo dico anche da mamma, quindi quando ho contatto con gli asili e con gli enti pubblici, vogliamo veramente il blocco, chiediamo il blocco, ed è fondamentale il blocco del fenomeno migratorio e ancora di più i controlli sanitari fatti ai migranti già presenti. Blocco totale e chiusura delle frontiere, come chiedeva il vostro responsabile immigrazione. Allora 349-238-6666, arrivano diversi messaggi in questo momento. Qualcuno dice: ma dai, sta facendo campagna politica. Senta, ma lei sui vaccini, sul provvedimento di Zaia che ha aperto un contenzioso con lo Stato centrale per difendere un'autonomia e una proroga del Veneto di 2 anni, ecco, sui vaccini cosa pensa su questa scelta di Zaia? Lo trovo un decreto completamente coercitivo. Ho capito, però non può essere contro la profilassi e anche contro la diffusione delle malattie, deve scegliere, no? Oddio, questa, allora, prescindiamo le due cose, però sicuramente il discorso vaccini... Lo sa che ieri c'è stata una bella intervista di un immunologo che diceva... c'è bisogno di più profilassi, e diceva pensi che si protesta per 10 vaccinazioni obbligatorie e invece bisognerebbe farne addirittura di più. Ma se non erro il nostro paese è l'unico che ha 10 obbligazioni obbligatorie. Sì, ma ci copiano, ci vogliono copiare in Francia. Non lo so, devono copiare le cose positive, no? Invece che comunque... No, io lo trovo veramente un decreto coercitivo, ma più che altro sono proprio per la libera scelta. Però, trovo una cosa... ma io rispetto questa sua opinione, però allora se uno vuole la libera scelta, rischia. E cioè se vogliamo difenderci dalle malattie, bisogna anche stare dalla parte dei vaccini, o no? Sì, figli, non si deve, diciamo, speculare, ecco, queste cose sicuramente... Io non sono contrario ai vaccini, però... premetto, da genitore concordo nel dire che la libertà, la libera scelta deve essere prima di tutto, deve essere un genitore, visto che un tema etico è così importante, deve essere un genitore a decidere per i propri figli, anche perché comunque sia nel momento in cui tu vai a fare un vaccino la responsabilità comunque è del genitore e di conseguenza è giusto che sia del genitore anche la libera scelta. Allora, Alessia Ambrosi, segretaria della Lega Nord Valle dei Laghi, madre e appassionata polemista, certo. Su Facebook. Comunque la pensiate, le opinioni più diverse ogni mattina a 24 mattino. GR più strade in diretta.